Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo come sempre la nostra mail unabusoalgiorno@radio24.it e vi ricordo anche di visitare il sito radio24.it, recentemente aggiornato, più interattivo. È possibile scaricare i programmi e andare anche a vedere i profili dei conduttori. Sul mio troverete anche il link al blog Guardie o Ladri, che come sapete compare anche sulla prima pagina del Sole 24 Ore online. Allora, oggi parliamo di una tematica abbastanza complessa, ma non nella sua definizione, perché anzi lì sarebbe anche chiaro, ma diciamo così, una di quelle figure che a me personalmente non hanno mai convinto e a quanto pare non convincono neppure i comuni. E parliamo dei difensori civici, queste sorti di paladini della legalità e della giustizia all'interno degli enti locali. Perché dico che non ci credono neppure i comuni? Ma perché leggo una notizia abbastanza curiosa da Catania, sulla Sicilia di Catania. L'inchiesta del collega Giuseppe Bonaccorsi è titolata Uffici comunali e sprechi. L'ufficio del difensore civico è ancora aperto e si paga l'affitto, ma il difensore civico non c'è da 2 anni. Ecco, è curioso che un'amministrazione comunale lo preveda fin dal 1990, poi però sono 2 anni che questa figura manca. Oggi di questo parliamo, vale a dire del ruolo del difensore civico, che sarebbe un paladino contro gli abusi, e come se lo sarebbe questo in teoria. E ne parliamo con Marco Consoli, che è il presidente del Consiglio Comunale di Catania. Buongiorno Consoli. Buongiorno a lei. E con Giuseppe Fortunato, che è il presidente dell'Associazione Nazionale dei Difensori Civici e componente del Garante per la Privacy. Buongiorno Fortunato. Buongiorno. Allora, io direi di partire da Consoli. Allora, la mia ovviamente è una provocazione, soltanto per paradossi, secondo me si riescono a capire fino in fondo le cose. Ci credete o non ci credete in questa istituzione, signor Consoli? Ma guardi, devo dire personalmente ci credo, e io 10 anni che sono consigliere comunale, negli ultimi anni abbiamo avuto ben 2 difensori civici che hanno lavorato nell'interesse del buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, come del resto dice la legge. Effettivamente negli ultimi 2 anni non abbiamo più un difensore civico, e non lo abbiamo per 2 ragioni. La prima è che l'ultimo difensore civico si è dimesso prima della scadenza dell'ultimo mandato. E poi perché l'amministrazione non ha proceduto ad avviare tutto l'iter, d'intesa naturalmente col Consiglio Comunale, per la nomina del nuovo difensore civico. Ecco, tutti conoscete un po' la situazione di Catania. Certo, ultimi anni. Assolutamente. Ecco, dottor Consoli, però continuiamo con le provocazioni. Se veramente si credesse fino in fondo su questa figura, io ho l'impressione che la politica ci metterebbe un attimo a decidere. Non solo questo, ma poi le dico, non sarebbe proprio già da difensore civico inesistente? Lo faccio io questa volta, no? Mi metto nei panni del cittadino catanese che si rivolge a voi e protesta perché, secondo quanto denuncia la Sicilia di Catania, voi pagate un affitto per una sede che è vuota, che è desolatamente priva del titolare. Ecco, non è un caso nel caso questo, dottor Consoli? Guardi, io le dico una cosa, lei ha assolutamente ragione. Oggi è uno spreco. Perché dico oggi è uno spreco? Noi ci siamo insediati 2 anni fa. Il primo anno di amministrazione, l'amministrazione e il Consiglio Comunale, per quelle che sono ovviamente le proprie competenze, hanno dovuto insieme aggredire uno stato di emergenza che è ben noto a tutti. Quindi in quel momento certamente risultava un grande spreco nominare un difensore civico, e abbiamo rinviato la elezione. Oggi ci sono tutti i presupposti per fare delle scelte, operare delle scelte, o nel senso di procedere alla nomina, quindi all'elezione del nuovo difensore civico, oppure no. Ecco, oppure rinunciare, diciamo, a questa figura. Assolutamente sì, e lo dobbiamo, questa è una valutazione che faremo, fermo restando che il nostro statuto prevede la figura del difensore civico, visto che abbiamo avuto ben due difensori civici. Ecco, allora io rilancio la provocazione iniziale a Giuseppe Fortunato. Personalmente, ma questa è un'opinione personale, ovviamente non costruita sul nulla, ritengo che tutte queste figure di paladini, il difensore civico, l'ombudsman in banca, il garante, insomma, veramente lasciano il tempo che trovano. Io personalmente le ritengo figure totalmente inutili. Basti vedere ad esempio quella che è stata la situazione di Catania, dove certamente ci sarebbe stato e come da andare a incidere nella mala gestione che negli anni è stata fatta in quello come in altri comuni. Però Fortunato, a lei il compito invece di convincermi del contrario. Guardi, io dico una cosa, che così come sono configurati i difensori civici, in cui molte volte non è garantita indipendenza, non hanno poteri, non hanno mezzi, non hanno risorse di nessun tipo, potrebbe essere anche giusto il suo ragionamento, cioè che in questo quadro che cosa ce ne facciamo di questi difensori civici? Certo. Invece c'è proprio un grande bisogno di una figura davvero indipendente, con poteri, con mezzi, che sia capace di essere un celere momento d'incontro del cittadino rispetto ad abusi, a negligenze e omissioni. Quando certo. succede qualcosa, il cittadino non sa che cosa deve fare. Ecco, ma infatti il ruolo, diciamo così, la sua figura sulla carta è incontestabile, assolutamente, perché una figura che si erge, come dire, a garanzia, a tutela del cittadino, non solo è benvenuta, ma ce ne fossero. Però, Fortunato, i comuni che ce l'hanno sono pochissimi e poi la sua stessa onestà intellettuale, secondo quanto ci sta dicendo, dovrebbe portare a ragionare come ha fatto anche il dottor Consoli, di cui ho apprezzato la riflessione, vale a dire, signori miei, o qui lo nominiamo ma veramente uno che abbia gli attributi, che non guardi in faccia a nessuno, o se no è meglio lasciar perdere. Ecco, dopo 20 anni, Fortunato, non è forse il caso di lasciar perdere? Sostanzialmente ecco. Dopo 2 anni di assenza, se c'è uno statuto, se c'è una norma va rispettata, non credo che gli amministratori possano essi stessi non rispettare le norme e poi chiedere da parte dei cittadini il rispetto delle regole. Ecco, ma più generalmente non c'è bisogno di una riflessione, lei stesso appunto diceva che tutto sommato con questi scarsi poteri dove possono andare i difensori civici, allora non sarebbe il caso di dire fermiamoci un attimo, no, e riflettiamo se veramente vale o non vale la pena di continuare a perorare questo difensore civico. Quanti ce ne sono intanto, Fortunato, in Italia? In Italia ce ne sono circa 500 su 8.000 comuni. Quindi una percentuale ridicola. Anche quei 500 non sono quella figura che noi vogliamo, cioè una figura di un difensore civico davvero indipendente con potere e con mezzi. Quindi dobbiamo distinguere molto su quella che è la situazione attuale e su quello che noi vogliamo. Cioè certo. Il cittadino ha bisogno invece di un vero tutore, di un organo terzo rispetto all'amministrazione che abbia la capacità anche di poter chiamare l'amministratore locale, il funzionario pubblico e dire non hai fatto il tuo dovere e quindi devi completare il procedimento oppure devi procedere in questo modo rimuovendo questo abuso. Ecco, Fortunato, io e lei ci conosciamo da circa 20 anni, ricordo le sue battaglie, lei è sempre stato uno che ha rotto le scatole in maniera straordinaria quando operava in campagna, quindi lei sicuramente è tra quelli che picchia duro, ma mi fa il nome almeno di un altro difensore civico che non guarda in faccia a nessuno? Guardi, io ne posso dare tanti di nomi di questo genere, c'è il difensore civico di Foggia, c'è il difensore civico della provincia di Milano, che sono davvero difensori civici capaci in maniera indipendente ed imparziale di porre i problemi del cittadino. È vero quello che lei dice, io sono d'accordo con quello che lei dice, cioè che molti difensori civici sono, diciamolo chiaramente, lottizzanti, sono semplicemente dell'acché perché vengono nominati sulla base di equilibri partitici, ma quelli non sono difensori civici. Esatto. Non possiamo contestare l'idea e la figura del difensore civico quando si dice che in concreto alcuni non fanno il proprio dovere. Assolutamente. Non lo fanno perché vengono sostituiti. In molti casi, ecco, alcuni difensori civici, si vede il caso di Bosco Reale, si vede tanti altri casi di questo genere, hanno fatto il loro dovere contro l'amministrazione comunale nel momento in cui l'amministrazione comunale aveva torto rispetto a reclami del cittadino e il comune ha deciso di mandarli a casa. Bene, allora io ringrazio Fortunato per il suo intervento. Una battuta finale a Consoli, nel frattempo ringrazio anche lui. Consoli, lo volete veramente un difensore civico che non guardi in faccia a nessuno, nemmeno alla vostra coalizione e alla vostra giunta? Ma il difensore civico deve essere così, quindi se il Consiglio e l'amministrazione ritengono di nominare un nuovo, eleggere un nuovo difensore civico, naturalmente deve avere questi requisiti. Queste caratteristiche. Sarebbe una spesa inutile. Io però faccio una brevissima considerazione, se me lo permette. 30 secondi. Benissimo, allora in questo momento bisogna andare molto cauti, noi non sappiamo effettivamente quali sono oggi le intenzioni del governo nazionale, vogliono che rimanga il difensore civico o meno, perché se è soltanto una proroga, sa, andare a eleggere un nuovo difensore civico che poi fra un anno si vedrebbe messo da parte da una finanziaria che dice tutto il contrario, bene. Capisce bene, sono soldi che noi buttati via. Riflessione condivisibile. Grazie ai nostri ospiti in regia Filippo Aureggi e in studio ad Elisabetta Fusconi e Roberto Calullo vi augura una buona giornata.